Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Roman Polanski, con le sue capacità e i suoi soldi, potrebbe dimostrare il suo pentimento facendo qualcosa in aiuto dell'infanzia violata. Qualcosa che scuota le coscienze di chi, per svago, la viola. Vedi Paesi orientali. Luisa. Scrivo riguardo all'argomento della cultura e delle sovvenzioni al cinema che non renderebbero dal punto di vista del rientro dei capitali. Io penso sia piuttosto pericoloso subordinare la possibilità di produrre arte e comunicare al mero tornaconto economico. Facendo così, si dà la possibilità di esprimersi solo ai registi che se lo possono permettere o che incontrano il favore della maggioranza del pubblico. Non pensate che la libertà di espressione presupponga che vengano sponsorizzate anche produzioni cinematografiche che incontrino il gusto della minoranza del pubblico. Allo stesso modo, credo che pagare il canone RAI dia la possibilità di avere un servizio pubblico indipendente da quelle che sono le sponsorizzazioni e dalle leggi del mercato o dell'audience, cosa che non avverrebbe se si privatizzasse la RAI. Il servizio radiotelevisivo pubblico non dovrebbe essere condizionato dal mondo politico, come invece avviene. È però illogico proporre di non pagare il canone solo perché la RAI è lottizzata dai vari schieramenti politici. Meglio continuare a pagare il canone e al contempo rendere il servizio pubblico meno asservito al mondo della politica. E a chi dice che non vuole pagare un servizio di cui non usufruisce, occorre ricordare che il canone è un'imposta, non una tassa. Marco Bra. Sulla libertà di stampa, è mia opinione che in Italia sia l'unica cosa che abbiamo. Questi dello sciopero dimenticano che molti italiani, tra cui io, hanno un problema serio di sopravvivenza. Io non ho mai visto qualche intellettuale o regista che raccolga firme o che aiuti cause di problematiche più vicine alla gente normale. In tema di libertà di stampa siamo veramente avanti, molto avanti, rispetto a tanti altri stati. E anche noi comuni mortali abbiamo libertà di dire quello che vogliamo, in pubblico o privato. Gli amici di Polanski, anzi i suoi complici, si stanno muovendo con firme e proclami e sono capaci di parlare di rispetto della giustizia solo quando la cosa riguarda il Berlusconi di turno, mentre diventano perdonisti quando riguarda un intellettuale come loro. Questi intellettuali non sanno che per molta gente normale che ha commesso reati meno schifosi di quello di Polanski, la sentenza passa in giudicato solo dopo 15 o 20 anni. Tommaso. Egregio direttore, secondo me in Italia c'è tutta la libertà di stampa possibile e immaginabile. Dipende solo da dove e quando. La libertà di stampa in Italia è inversamente proporzionale alla capacità di influenzare l'opinione pubblica. Sui giornali e alla radio si può scrivere e dire qualsiasi cosa. Esistono trasmissioni e giornali di ogni orientamento. Peccato però che l'80% degli italiani si informi solo attraverso la televisione. Probabilmente chi legge gli articoli di Travaglio sull'Unità o ascolta Radio Popolare rappresenta un'insignificante minoranza e comunque non modifica le sue idee e il suo voto. Questi mezzi sono irrilevanti ai fini della formazione dell'opinione pubblica. Non sono in grado di spostare un solo voto. Qualche fastidio al nostro presidente lo hanno dato solo i due grandi giornali, il Corriere e la Repubblica, proprio per la loro grande tiratura, che peraltro è ancora irrilevante rispetto alla vastità dell'elettorato. Dove invece non si può dire ciò che si vuole, è in TV, soprattutto in prima e seconda serata. In altri orari, con una certa moderazione, qualcosa si può dire. I grandi attacchi hanno sempre riguardato giornalisti che hanno portato le loro critiche in televisione e magari in prima serata. Il caso più celebre è Biagi, il cui programma Il Fatto, in onda alle 20.30 su Rai 1 appena dopo il TG1, realizzava i massimi ascolti. Ora non resta che normalizzare il TG e poche trasmissioni di Rai 3. E infatti le polemiche riguardano solo quella rete, che ancora sfugge al controllo. Il resto della televisione italiana, pubblica e privata, non costituisce un problema per il nostro presidente. Penso di non dover spiegare il perché. Risultato? Mediamente chi legge i giornali o ascolta la radio, compresa Radio 24, cui sono grato, sa più cose e diverse rispetto a chi si limita alla televisione. Sarebbe interessante condurre una seria ricerca in tal senso. Claudio, ricercatore. Mi sorprende il fatto che famosi giornalisti, come per esempio l'emerito Santoro, non abbiano capito che la signora, si fa per dire, da Dario, mente spudoratamente, in quanto se il premier avesse saputo di avere a che fare con una escort, non l'avrebbe toccata neanche con un dito. Se l'ha toccata, come dice la nobile donna, vuol dire che non sapeva. Mi meraviglia che fior fiore di giornalisti, suppongo intelligenti, continuino a non capire, o fanno finta, che il presidente non è un uomo politico ingessato, non è un ideologo. È un signore imprenditore di successo a cui piace piacere, frequentare gente simpatica e gioviale, e che in questo momento sta cercando di risolvere i problemi di questo paese nel modo migliore possibile, indipendentemente da schemi ideologici partoriti da menti ormai sorpassate. Lasciamolo fare. Anzi, lasciatelo fare. Mario. La peggiore ed evidente tristezza che emerge dalla puntata di Anno Zero di giovedì scorso non arriva né da Berlusconi né dalla Daddario, o da Bernstein o Belpietro. Il problema è che nessuno di noi si fa più scrupoli, non c'è più contegno. Nessuno di noi si contiene più, pur di rincorrere soldi, visibilità, potere. Tutti vorremmo essere Tarantini, Berlusconi, vicepresidenti regionali, direttori amministrativi dell'ASL o della regione, e guadagnare 1 o 2.000 euro al giorno a qualunque costo. È in quel qualunque costo che sta il problema. Quelle tre ragazze così carine potrebbero tranquillamente svolgere qualsiasi lavoro di concetto, ma questo evidentemente non sarebbe professionalizzante. Nessuno di noi ha più dei valori sui quali costruire la propria quotidianità, il proprio lavoro, i propri affetti. E in questo l'assenza e la pochezza della scuola e della chiesa e la presenza diffusa di cattivi maestri nei posti sbagliati hanno contribuito molto. Da noi, in Puglia, quando qualcuno è senza lavoro, si candida e magicamente apre partita IVA al coniuge o al figlio. Decenni addietro, se non eri un medico, un avvocato, un ingegnere o un architetto o un imprenditore, non potevi minimamente candidarti. Piero, provincia di Bari. Ho visto ad Anno Zero lo spezzone della BBC sui preti cattolici pedofili e mi sono sentito come un offeso che non può rispondere e si chiede perché lo abbiano fatto. Poi ho pensato che la loro è solo invidia. Io non credo che tiri una brutta aria nell'informazione quando un Giampaolo Pansa scrive che questa mancanza di libertà è una buffonata inventata ad arte dalla sinistra. Non credo che tiri una brutta aria quando Striscia la Notizia smonta le falsità di Videocracy e contemporaneamente monta una campagna giusta contro il sindaco di Palermo. Spero invece che non vadano al governo quelle persone che hanno pagato con i soldi dei contribuenti per avere il dittatore Chavez a Venezia e lo hanno accolto come un salvatore, con i pugni alzati e la bandiera del CE. Gino. Volevo solo fare un punto su quello che intendo io quando sento parlare di regime e mancanza di libertà di stampa. È certo una barzelletta dire che siamo in un regime fascista, però un problema c'è. Non è la libertà di dire o scrivere quello che si vuole l'unico problema. È la libertà di poter proporre il proprio lavoro ad un numero congruo di editori. Mi spiego. Se Santoro, la Dandini o chi si voglia organizza un programma fazioso e magari anche scandaloso, penso sia giusto evidenziare il problema che tutto questo avviene sulla TV di servizio pubblico. Però gli stessi Santoro e Dandini non hanno possibilità di offrire il proprio lavoro ad altre reti televisive concorrenti, portandosi dietro i propri spettatori. Se la RAI è servizio pubblico, Mediaset è ovviamente inaccessibile. Rimane solamente la 7, che comunque non sembra interessata a fare concorrenza alle due aziende. È questo che credo sia l'anomalia. La mancanza di concorrenza nell'informazione. Tutto qua. Marco, Roma. Cara Radio 24, mi commuovo ad ascoltare la musica che ci ricorda il tuo compleanno e gli spezzoni registrati della tua vita. Per un bambino non sarebbero molti 10 anni, ma per te il tempo non c'è. Perché è come se tu ci fossi da sempre. Sei per tutti noi che ti ascoltiamo un poco delle nostre giornate e anche della nostra vita. E ti aspettiamo ogni mattino come si aspetta una cara amica, un insegnamento, un arricchimento, una bella emozione. Sei insostituibile e la nostra fedeltà è un vero sentimento di ringraziamento e di condivisione. Festeggia con noi questa ricorrenza. Siamo tutti qui a mandarti un bacio. Grazie e tanti auguri, cara amica. Giulia. Ultimamente sto sentendo una pubblicità nella quale si dice che siete in onda da 10 anni. Io ricordo che vi ascolto da circa 13-14 anni, dal tempo in cui i GR andavano in onda al 24esimo minuto di ogni ora. Vi sarei grato se poteste ragguagliarmi in merito. Grazie, Antonio Messina. Caro Antonio, le devo proprio confermare che Radio 24 compie 10 anni. Ha iniziato le trasmissioni il 4 ottobre del 1999. Era il secolo scorso e forse per questo può sembrare a lei un tempo più lontano, un ricordo affidato a piccole sensazioni e a particolari curiosità. 10 anni possono essere un tempo lungo o breve, dipende dalla sensibilità di ciascuno e se sono 10 anni che abbiamo vissuto dipendono dalla nostra vita, dalle nostre relazioni e non dai libri di storia. I primi 10 anni di Radio 24 sono così un'occasione per guardare indietro, essere soddisfatti per il cammino percorso insieme e che ci ha fatto incontrare milioni di ascoltatori, ma soprattutto per guardare avanti, perché in una società come quella in cui viviamo, una radio aperta, informata, attenta a tutto quanto si muove all'interno della politica, dell'economia, del costume, dei modi di vivere, potrà avere sempre più spazio. Anche perché, le assicuro, la passione si continuerà a sentire. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.